Letture di Radio 24. Nel 1934, a 19 anni, Patrick Lee Fermor, dopo essere stato espulso dal college, decide di mettersi in viaggio a piedi per Costantinopoli, compiendo una sorta di pellegrinaggio nei territori mitteleuropei che di lì a breve avrebbero subito radicali trasformazioni. Da questa esperienza nascono due resoconti di viaggi, Tempo di regali e Fra i boschi e l'acqua. Un terzo libro è stato pubblicato postumo, per ora solo in Inghilterra, a partire da un manoscritto nel quale l'autore, scomparso nel 2011, stava raccontando l'ultima parte del viaggio. Fra i boschi e l'acqua parte dove era terminato il primo libro, ai confini tra Slovacchia e Ungheria. Ecco alcune pagine nelle quali Fermor descrive l'attività dei cercatori d'oro tra le montagne dei Carpazi, in Transilvania. Il sentiero si tuffò in una valletta dove un torrente scaturito dal cuore della montagna precipitava di pozza in pozza e poi percorreva la forra in tutta la sua lunghezza fra un intrico di bassi cespugli. Un gruppo di zingari, con la loro caratteristica capacità di trasformare in discarica persino un angolo di foresta, si era sistemato nella valle con tende, cani e cavalli in pastoie. Ma questa volta il sudiciume era riscattato dalla smodata selvatichezza del loro aspetto. Seduti sui calcagni come gli indiani, di fianco al torrente, sulle prime sembrava che stessero lavando le stoviglie. La cosa era così poco in carattere che guardai meglio. Erano impegnati a immergere larghe ciotole di legno nella corrente convogliata in piccoli canaletti improvvisati con delle assi. Impastavano e setacciavano il fango e la ghiaia. Strizzavano ed esaminavano certe pelli di pecora gocciolanti che avevano accuratamente steso sotto le loro precarie chiuse. Ed erano tutti intenti come gheppi a scrutare la loro opera. Risposero al mio saluto con uno sguardo di momentanea costernazione, ma lasciarono che mi sedessi a osservarli. Stavano cercando l'oro. Ci sono vene aurifere e argentifere in molte di quelle montagne e già i romani usavano scavarle. L'oro si trova in strati sottili all'interno delle rocce e piccoli frammenti del minerale esposti ed erosi si staccano e si riducono in polvere mista a fango, sabbia e ghiaia. Oppure vengono trattenuti dall'erba e lavati via con la corrente insieme agli altri materiali alluvionali. I frammenti sono infinitesimali. E da ciò i canaletti e i velli disposti per catturarli. Immaginavo che i nomi rumeni per l'oro e l'argento assomigliassero a quelli usati in araldica e in effetti erano aur e argint. Il cercatore d'oro vicino a me, che era anche il capo del gruppo, disse che non ne avevano trovato. Ma dopo esserci fumati un paio di sigarette arrotolate da me e aver scambiato qualche convenevole, per quanto lo permetteva il mio rudimentale rosaio di parole rumene, ammise che sì, un po' ne avevano trovato, non in quel punto, ma in un posto chiamato Porcurea, in mezzo alle colline selvagge dell'altro lato del Maros. In quel torrente avevano fatto cilecca, ragionai, forse a causa delle informazioni sbagliate. Lo zingaro estrasse con riluttanza una piccola bisaccia di cuoio dalla cinta, ne tirò fuori una borsa di cotone ancora più piccola, slegò la cordicella e rovesciò alcuni grani sul palmo ossuto. Un paio erano delle dimensioni di paillette microscopiche, ma il resto solo bruscoli luccicanti. Si offrì di vendermi il tutto e intanto faceva danzare i frammenti nella mano, fra le linee del cuore e della testa. Ma la cifra richiesta era talmente spropositata che per risposta rovesciai le tasche vuote dei calzoni e lui si mise a ridere. Ormai eravamo amici e quando si avvicinò una ragazzina che cominciò quasi per dovere a chiedere l'elemosina con bisbigli allo stesso tempo complici e meccanici, le disse qualcosa in romaní e lei, con un sorriso di scusa, tacque. Non potei fare a meno di ammirare la fattura dei recipienti usati per vagliare la polvere d'oro. In legno di noce, un braccio di diametro, erano leggeri e finemente levigati. Lì dentro, dopo una pesca fortunata, i grani dovevano brillare come la Via Lattea contro il cielo buio. Quegli zingari erano lingurari, fabbricanti di cucchiai, abili in tutti i lavori di lattoneria e di intagliatura del legno. Erano arrivati in quel posto un paio di giorni prima, per una via diversa dalla mia. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Patrick Lee Fermor, Fra i boschi e l'acqua. Ad Elfi, 296 pagine, 19 euro. Letture di Radio 24. Sono sorelle, sono giovanissime e le loro voci hanno già incantato migliaia di persone. Con il loro album d'esordio, Lily e Madeleine hanno dimostrato che nel mondo della musica c'è ancora spazio per i buoni sentimenti e che si può essere brave ragazze senza essere noiose. The river is white, it's tangled and dry, but I still remember you here. Per ogni Kate Middleton c'è una Pippa, scrive un profetico rotocalco. Il fascino della sorellanza traversa anche la musica leggera dai tempi delle famigliole canterine, perché c'è qualcosa oltre quell'intimo accordo tra due voci che si conoscono da sempre, che magnetizza l'attenzione degli investigatori del pop, qualcosa che risale su fino alle musiche da cameretta, alle cantilene nate per andare oltre la noia pomeridiana. Un quale esoterismo, il metafisico della comunicazione tra due prodotti dello stesso grembo, che prende forma di canzone. A rinverdire questa pregiata discendenza arrivano Lily e Madeleine, le sorelline che con l'album che porta il loro nome hanno alzato l'asticella del fenomeno. We were not afraid of the mess we made, the silence as it grew. Not faze me and you. Getting lost like a child in the sun, looking for another place to run. We will not say goodbye to anyone or the ghost that we're giving up. Vengono da Indianapolis, provenienza che conta per decifrarne la vicenda artistica. Quello infatti è il migliore Midwest invulnerabile al disfacimento metropolitano dell'altra America, connesso alla coesistenza tra struggente bellezza naturale, robusta struttura sociale e illuminata apertura al progressismo, grazie a un laboratorio come l'enorme università che risiede a Bloomington. Lily e Madeleine, comunque, hanno un'età scandalosa. 19 l'una, 17 l'altra. Per forza, la reazione al sentirle cantare sta nel chiedersi come, così acerbe, abbiano già creato una simile sofisticatezza, per poi intuire che invece è proprio la loro età la motivazione di ciò che fanno, rendendone perfino impermanente il miracoloso equilibrio. La sensazione è d'ascoltare un prezioso esercizio frutto dell'intima relazione tra due sensibilità, due intelligenze, due voci vicine fin quasi a sovrapporsi, come nell'immagine di copertina del disco, dove le loro silhouette si dissolvono l'una nell'altra, in un sistema artistico, e poi melodico, armonico, eccetera, che esiste solo in questa completezza binaria. Per Lily e Madeleine, il ricamo musicale, la sua costruzione e la sua confezione ruotano attorno al concetto di bellezza, nella dimensione più sofficemente seduttiva che si possa progettare. Le loro canzoni sono semplici, precise, assolutamente deliziose. We are surrounded by such history and shame. And like the ancients, we are spirited away. Una fanciulla arpeggia al pianoforte, l'altra carezza con nonchalance una chitarra acustica. Tutto deve essere cominciato così, duettando casualmente e mettendo a punto la micidiale meccanica emotiva che sta nell'intreccio delle loro voci, che spinge noi al più decadente degli ascolti. Fortuna che ci sia la giovinezza a ridare colorito alle loro canzoni, che ci siano le belle facce larghe delle ragazze, gli zigomi pronunciati che tradiscono ascendenze slave, confermate dal cognome Jurkevich. I've got something to tell you. E poi, per fare del disco un debutto importante, destinato a una dimensione addirittura internazionale, c'è la produzione delle canzoni, nata nel miglior laboratorio possibile, la Label Asthmatic Kitty voluta da Sufjan Stevens, che ha buoni meriti nella rivitalizzazione del songwriting americano di inizio XXI secolo. Per Lillian Madeleine si è scelta una dimensione orchestrale che le avvolgesse senza travolgerle, che le incorniciasse senza invaderle. Questione di tocchi, di rifiniture e di respiro, che esaltano i contenuti delle canzoni di Lili e della prustiana Madeleine. Il loro approccio all'esperienza, il preoccuparsi del domani, la percezione delle estati profumate. Certo, Charlotte Bronte è dietro l'angolo, ha malignato una critica londinese. Si suona questa musica del benessere solo se durante l'infanzia si è cresciuti in una casa dove si sentiva soft rock in blue jeans. Ma questa è materia solo per cultori della delicatezza, per feticisti della leggerezza e dello sfiorare, per ammiratori del picnic at Hanging Rock. L'oggetto di culto, ovviamente, è l'innocenza, la maledetta innocenza, sacro graal del pop, in un disco di ragazzine che certamente avrà l'avventura d'essere consumato e perfino coscientemente indirizzato a un pubblico ben più adulto di loro. Se poi siete ultra del voyeurismo musicale e volete l'esperienza conclusiva di questa delicatessen canterina, cercate su YouTube la versione che Lili e Madeleine hanno registrato di Sea of Love, la canzone di Phil Phillips del 59, estrema tool della torbida sensualità pop. Come with me, my love, to the sea of love. I wanna tell you how much I love you. Ci vorrebbe una paginetta di Elroy per descrivere lo scambio d'occhiate tra le sorelline mentre gorgheggiano accompagnandosi con un fragile ukulele. Mentre ve ne beate, vi verrà di pensare che una simile condizione e perfezione debbano per forza essere effimere, legate a un momento magico, a uno stato di grazia. Senza accorgervene, siete precipitati di nuovo in quella pericolosa contemplazione della bellezza innocente che sempre ci strega e ci irrita. Perché, contraddicendo il califfo, filosofo formativo della canzone della capitale, in questo caso davvero è da escludere il ritorno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefano Pistolini, Lili e Madeleine, belle più che mai, dal mensile Il. A 30 metri circa sotto la superficie di Londra c'è un luogo dove la temperatura si aggira sempre attorno ai 19 gradi, anche d'inverno, ma è così buio che non si vede ad un palmo di naso. Sono i sotterranei di Londra, una città sotto la città, i cui confini sono ancora incerti, dato che non compare in nessuna mappa. Dopo aver esplorato la città di superficie nei suoi precedenti libri, Peter Ackroyd si addentra ora nel sottosuolo di Londra per raccontare i segreti che si annidano tra le catacombe, le reti fognarie, i rifugi costruiti durante la guerra e gli scavi della metropolitana. Uno dei capitoli più affascinanti è quello dedicato ai 13 fiumi dimenticati, che un tempo passavano tra campi e valli e ora corrono lungo tubazioni e fognature. Molti sono affascinati dai fiumi nascosti e ne indagano il corso, con le mappe se non con la bacchetta da rabdomante. Li seguono finché possono in desolate periferie, fra i torrioni delle case popolari e i centri commerciali, oppure si perdono in campagne melmose. La tristezza del mondo esterno sembra un lamento per il rivo perduto. Gli esploratori dei fiumi invisibili procedono lentamente, ricreando un senso del tempo che è andato perduto nella città contemporanea. O forse il tempo stesso è alterato dalla presenza del fiume sepolto, perde importanza al suo cospetto. L'acqua sotterranea era comunemente associata alla malattia, veniva percepita come infida e pericolosa, nonché causa di terribili epidemie. Oltre a minare le fondamenta delle case che si ergevano lungo il suo corso, Il fiume poteva compromettere la salute di quelli che le abitavano. Anticamente le infezioni più diffuse erano la febbre tifoide e il colera, ma anche oggi chi vive nei pressi dei fiumi sotterranei rischia di buscarsi una bronchite o i reumatismi. Un'indagine del secolo scorso giungeva alla conclusione che asma e febbre da fieno erano più diffuse nei quartieri attraversati dai canali. Un'altra caratteristica dei fiumi perduti di Londra è segnalata da G.W. Lambert in uno suo studio del 1960, The Geography of London Ghosts. L'autore afferma che circa tre quarti dei fenomeni paranormali di Londra avvengono presso le acque sotterranee. Per alcuni si tratta di una conferma delle proprietà spirituali dei fiumi. Le attività rituali connesse a Walbrook, per esempio, troverebbero una spiegazione. I più scettici faranno osservare che lo scorrere delle acque nel sottosuolo tende semplicemente a creare curiosi effetti sonori. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Peter Aykroyd, I sotterranei di Londra, Neri Pozza, 240 pagine, 16 euro. Per anni la scrittrice americana Cheryl Strayed ha risposto, sotto lo pseudonimo Sugar, ai lettori del sito letterario TheRumpus.net che le chiedevano consigli sugli argomenti più disparati. Alcune di queste lettere sono ora raccolte nel volume Piccole cose meravigliose, dove l'autrice distribuisce rimedi per piccoli e grandi problemi, mescolando saggezza e capacità di immedesimarsi nelle situazioni raccontate dai lettori, anche nei casi più difficili, come quello raccontato in questa lettera. Cara Sugar, sono un transessuale. Nata femmina 28 anni fa, ho saputo di essere un maschio da quando posso ricordare. A causa del fatto che ero diverso, ho avuto un'infanzia e un'adolescenza prevedibilmente penose in una cittadina di provincia, preso di mira dagli altri bambini, frainteso dalla mia famiglia, per il resto affettuosa. 7 anni fa ho detto ai miei genitori che avevo intenzione di cambiare sesso. La notizia li fece infuriare e li sconvolse. Inveirono contro di me dicendo le cose peggiori che si possono immaginare, soprattutto se rivolte a un figlio. Ho reagito tagliando i ponti in modo netto e trasferendomi nella città dove vivo oggi, dove ho provato a ricostruire una vita degna. Ho amici e un amore. Amo il mio lavoro. Sono felice di quello che sono diventato, della mia nuova esistenza. È come se avessi costruito un'isola lontana, al sicuro dal mio passato. E questo mi piace. Un paio di settimane fa, dopo anni di silenzio, ho ricevuto dai miei genitori un'email che mi ha sconvolto. Si scusavano per come avevano reagito riguardo ai miei progetti di cambiare sesso. Si dicevano dispiaciuti di non aver capito all'epoca e che ora era diverso, almeno a sufficienza per poter avere un legame con me. Scrivevano che mi volevano bene e che gli mancavo. Sugar, vogliono riallacciare i rapporti. Ho pianto disperato e la cosa mi ha stupito. So che potrebbe sembrare strano, ma ero convinto di non amare più i miei genitori. O comunque il mio amore era diventato qualcosa di astratto dopo il loro rifiuto. Eravamo rimasti in silenzio per anni. Ma a leggere l'email sono affiorate di nuovo moltissime emozioni, che credevo morte. Ora l'idea mi terrorizza. Sono riuscito a ricostruire una vita perché sono uno tosto. Sono un orfano, ma me la sono cavata alla grande. Devo cedere e perdonarli. Riprendere i contatti e magari andare a trovarli come mi hanno chiesto. O rispondere con un'email e dire grazie, ma accogliervi di nuovo nella mia vita è fuori discussione, dopo tutta la mia sofferenza. Orfano. Caro orfano, ti prego, perdona i tuoi genitori. Non per loro, fallo per te. Se lo fai, ti sei guadagnato tutto quello che potrebbe accadere. Ti sei già ricreato. Tu, tua madre e tuo padre avete la possibilità di creare un'epoca in cui loro sono finalmente capaci di amare il vero te. Lasciaglielo fare. Ricambia il loro amore. Prova ad ascoltare cosa provi. Quello che ti hanno inflitto 7 anni fa è terribile. Adesso lo riconoscono. Sono dispiaciuti. Sono maturati e cambiati e hanno compreso cose per cui prima provavano sconcerto. Non accettarli per le persone che sono diventate in questi anni non è molto diverso dal loro rifiuto nei tuoi confronti. Si tratta di sentimenti che nascono dalla paura e dalla punizione. È da persone deboli, non toste. Tu sei un tosto. Hai dovuto rispondere a domande impossibili, sopportare umiliazioni, soffrire conflitti interiori e ridefinire la tua vita seguendo strade che la maggior parte delle persone non può nemmeno immaginare. Ma sai una cosa? Lo stesso hanno dovuto fare i tuoi genitori. Avevano una bambina ed è diventata qualcosa che non si aspettavano. Sono stati crudeli e meschini quando più avevi bisogno di loro, e questo è accaduto solo perché affogavano nella paura e nell'ignoranza. Adesso non stanno più affogando. Hanno impiegato 7 lunghi anni, ma sono arrivati a riva. Sono alla fine approdati alla tua isola. Dai loro il benvenuto. Tua Sugar. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Cheryl Strayed, Piccole cose meravigliose, PM 364 pagine, 17,50 euro.